la pazzia, che cazzo, René, la cerveza, la tradizione, oh merda, come la chiami tu, ma con una bella spruzzata di pazzia. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Allegramente col consenso generale la peccata è fatta. Tra guastatori e giudici d'assalto, tra sceneggiate e giudici d'ascolto, praticamente la frittata è fatta. Vai, presenti 560, votanti 559, astenuti 1, maggioranza 280, hanno votato sì 352, hanno votato no 207, la Camera approva. Concorrenti, ballerine e mostri, autorità e consigli per gli acquisti, praticamente la frittata è fatta. Vai, so. Non c'è cosa più democratica di mettere la fiducia. Con la fiducia, se il governo passa, va avanti, se la legge non viene approvata, il governo va a casa. Cosa c'è di più democratico di chi rischia per le proprie idee? Semplicemente come se non fosse niente, la frittata è fatta. Quello dopo Renzi sarà sicuramente peggio di Renzi. Io penso che Renzi sia il meglio. Quello dopo non si offenderà Renzi, se dico così, sarà peggio di lui. Che precedente gli stiamo dando in mano? Non ci fermeranno, se vogliono possono mandarci a casa, ma non possono farci desistere da questo obiettivo che serve agli italiani, non a noi. Dopo il voto di finale esce dal PD. Non lo so, se glielo dico adesso togliamo la sala. La domanda è questa. Praticamente allegramente in un istante la frittata è fatta. Gli anziani del partito, va bene, quelli quei 4 o 5 che adesso sembra che siano quelli che devono salvare, i cirenei che devono salvare il partito, e si sono dimenticati che l'Italia è arrivata dove è arrivata quando loro erano su quelle sedie lì. Questo era Don Mazzi, l'ultimo, è Don Mazzi, i cirenei. E poi c'era Civati, prima Civati, allora esce dal PD, la suspense, Civati sono 3 anni, Civati ormai è una tragicommedia, allora esce dal PD, cioè c'è il cronista che avvicina Civati da 3 anni con quella domanda nuova che nessuno gli ha mai fatto, sperando di essere lui cronista ad ottenere la risposta da Pulitzer, allora esce dal PD, la suspense, Civati, Allora, pare che Renzi abbia detto così nel consesso dei suoi deputati ieri in Consiglio dei Ministri: la leadership ha bisogno di scossoni, di scossoni per vedere chi ti segue. Cioè la leadership è come una nave, non è che c'è bisogno che tutti stiano a bordo. Per avere tutti a bordo bastava Enrico Letta. E poi ancora si parla del fascismo. Io dico, però adesso lo dico, magari qualcuno dei nostri ospiti già non sarà d'accordo. Io a sentire ancora parlare di fascismo verrebbe un pochino da farlo provare il fascismo vero, a chi continua a dire che c'è del fascismo. Così, no, non che auguro questa sciagura assoluta, però ci vuole anche un certo modo per evocare passaggi storici un po' diversi. Vabbè, non vogliamo parlare di calcio, no? E il Milan è sotto! E il Milan è sotto! E il Milan è sotto! vabbè, che succede? È morto tutto, no? Allora, no, vi dico solo questo. Cioè, per dire quanto stiamo abbondantemente superando anche il senso del ridicolo. Adesso licenziamo Inzaghi. Questa mattina la Gazzetta dice che esoneriamo Inzaghi e il Milan sarà affidato a, udite, a Brocchi. Per cui possiamo dire adesso che è il Milan di Brocchi. Cioè, voi capite che, ma voglio dire, caro Tiziano Cuderi, questi erano altri tempi, quando Pippo Inzaghi stava non in panchina. Vabbè, è un Milan di Brocchi, adesso possiamo dirlo quasi ufficialmente. Vabbè, ma le nostre due mie amiche qui di calcio, non lo so, vediamo se la mia amica Padana sa qualcosa di calcio, ma lei l'Atalanta soprattutto, la mia sarà l'Aurora. Eccomi, buongiorno Milan. Buongiorno. Di calcio, vabbè, è un Milan di Brocchi, ti intenerisce un po', Pippo Inzaghi? Buongiorno a tutti, Talice non ti sbagli che non so niente di calcio, sono già andata al bar del paese, sì. Ho già letto tutta la Gazza. Oh, ma capolinea sei... Pippo titolava Milan umiliato e pronto Brocchi, sotto c'è Mister B che tratta con Silvio. Ma ti stimo, fratella. Che oggi arriva la risposta, che è ottimista. Mamma mia, ti stimo, fratella. Ragazzi. E poi diceva anche in prima che Inzaghi comunque andrà, va in giro a testa alta e il suo Milan resterà nel cuore per sempre. Ah sì? Va a testa alta? Verso l'esonero. Poi c'era Tevez, violino, qualcosa. Tevez, non ricordo. Tevez. Vabbè, mi sa che invece saluto invece. Vabbè, allora hai passato l'esame di calcio. Aurora Lussana. Vediamo se passerà l'esame invece la nostra Veronica. Nostra Veronica Gentili. Buongiorno, tutte le abbiamo tirate fuori, oggi Celentano. Chi lo sa se sono tutte. Non, forse no. Non porre limiti alla provvidenza musicale sulle Veroniche. Hai ragione, guarda, sono molto contenta. Tu di calcio proprio. Io non passo l'esame, come si dice a Roma, faccio pippa 100 punti alla Lussana che ha vinto lei. Io proprio non mi appropinco nel campo. Ragazzi, legge. Ho letto solo la pagina sull'Atalanta, comunque. Ecco. Molto più brava. Io proprio neanche posso bluffare, avrei dovuto copiare i compiti. Tipo, per esempio, Veronica, l'Atalanta di che città è? No, dai, ma perché adesso io devo essere umiliata pubblicamente? No, ma vabbè, non è giusto. No, vabbè. Aurora, no. Qui siamo proprio neanche all'ABC. No, vabbè. Dai, mi cacceranno di casa. L'Atalanta è di Bergamo. Insomma. La Sampdoria? Dopo oggi lo so, no, non lo puoi fare, Milan, ma non dai, è giusto. Ma dai, Veronica, ma insomma la Sampdoria è di Genova. Dai, ma vabbè, ragione, la Sampdoria di Genova avrei dovuto saperlo, ma non purtroppo... Vabbè, dai, proprio... ti faccio questo è facile. Lazio, ci puoi arrivare la Lazio? Guarda, la Lazio ci posso arrivare soltanto perché teoricamente dovrebbe essere la squadra di famiglia, solo per quello ci arrivo. Vabbè. E poi c'è un altro così per assonanza. Come ecco, dire. Vabbè, sulla Lazio ci possiamo arrivare. Vabbè, dobbiamo studiare un pochettino. Qui. Sì, ci lavoro, dai, in settimana studio, così mi trovate pronta la prossima volta. Vabbè, Aurora, sei scioccata, non so, ti sei ripresa? No, vabbè, ma scusa, ma è mai venuta a Bergamo la Veronica? Ma non lo so. No. Credo di non... Forse ci sono stata una volta, ma temo, cioè, mai bene, ci sono stata a lavorare, a recitare una sera, ma forse mai bene. Ah, ma dove, Donizetti? Sì. Vabbè, allora ci sono Donizetti. Raga, no, va bene, allora mica male, va bene. Ha messo piede. Allora bello. Sono giustificata. Sì, va bene, sono da Donizetti, va bene. Va bene, Stefano ci dice: salutaci Aurora, dille che quando si sposerà saremo in tanti a piangere. È il 6 giugno e quindi ormai manca un mese e poco più, un mese sì, poco siamo, ragazzi. Ragazzi, un mese e poco più, ma sarai emozionata, piangerai? Oppure il tuo cuore padano è freddo un po', vincerà su tutto. Ma io piango sempre battesimi, comunioni, matrimoni. Sì, a quelli degli altri. Sì. Però Sì, sì, tutto pronto per il D-Day. Va bene, hai fatto la prova vestito, tutto a posto? Enzo da Latina sì, ci chiede se il vestito è a posto. La sperada originale del 1600, c'è tutto, speriamo che arrivi lo sposo. Cioè che è quella cosa che si mette in testa? No, non è quella cosa che si mette in testa, la corona della donna lombarda. Ah, è la corona della donna lombarda, hai sì. Capito. Va bene, è tutto pronto dunque per il 6 giugno, D-Day, il matrimonio di Aurora Lussana. Bene, siamo felici, ovviamente tanti auguri, non ci hai ancora detto dove andrai in viaggio di nozze, ma... Già, il moroso lavora, cioè il marito lavora, quindi andremo, penso ad agosto, e lavora ragazzi. Ma un giorno potremo svelare pubblicamente che è tuo marito o no? Sì, non è mica una roba clandestina, no, infatti, no. È militante della Lega. È un militante della Lega. Sì, certo, questo no, non avevamo certo. Dubbi. Non avevamo dubbi di questa Pensa cosa. Se fosse stato un militante del PD, era esatto, grave. No, siamo per l'endogamia. Sono stata abbastanza endogamica. Se ne prendono uno fuori dalla Lega ti espellono, eh? Questo è il regolamento, articolo 7. Di perpetuare la stirpe. Sì. No. Vabbè, quando io come vedi, lo so, ma non dico niente. Quando e se tu riterrai opportuno dirlo, noi lo diremo pubblicamente. No, scusa, che detta così sembra che c'è qualcosa da nascondere. No, ma cosa c'è da nascondere? Nel senso che io la privacy la mantengo, però. Ah, no, scusa. No, sì, è di Como. Vabbè, insomma, ci sta dando degli indizi. Non lo vuole dire, va bene, lo diremo in corso se mai vorrà. Allora, no, perché fino alla fine che riancesa che crede mia, quindi no. Aspetta. Ecco. Traduci per tutti? No, dicone sì. No, c'è la classifica. No, va bene, è un bel ragazzo. Anche su questo non avevamo dubbi. Allora va bene, sì. Parliamo di invece questo regime fascista. Ecco, voi del Fatto Quotidiano, cara Veronica Gentili, ieri titolavate come Scelba, come Mussolini. Ma dai, ma non ti sembra un po' esagerato? Avevo capito che temevi la mia reazione quando hai detto di miei ospiti non saranno d'accordo. No, nel senso, la parola fascismo può essere declinata in tanti modi, nel senso che tutte quelle che sono le prove muscolari, secondo me, fine a se stesse, rievocano il fascismo. Dopodiché il fascismo significa tante cose, non è che dall'inizio, quando il fascismo c'è stato, è stato quello che è stato. Poi progressivamente è andato degenerando e poi è diventato quello che era. Ah, cioè, quindi secondo te c'è proprio il rischio che se arrivi no, a un fascismo... No, ma io parlo... Il fascismo, appunto, ti dicevo, in questo senso ha diverse declinazioni. Non è che necessariamente diventa dittatura come noi la intendiamo e quindi diventa un oltraggio a chi l'ha vissuto e a chi poi si è vissuto, la guerra. Non è questo il senso. È che nel momento in cui tu decidi di imbavagliare qualunque sorta di pluralismo per quello che ti è possibile, sì, rimanendo più o meno all'interno di un apparato parlamentare senza decidere di eliminare definitivamente il potere legislativo, beh, non è che si stia comportando proprio benissimo. Ma allora Renzi, io però adesso dopo appaio renziano, che è la cosa che mi fa più bestialire, perché perché non lo sono, cioè io non sono di nessuno, se Renzi dice una cosa buona dico che dice una cosa buona, se dice una cazzata dico per me ha detto una cazzata. Questa è la mia posizione di partenza. Cosa buona? Ma voglio dire chiudere il dissenso, chiudere i, cioè tu hai detto che ha impedito agli altri, ha posto la fiducia e se volevano dirgli no, allora, dicevano no e punto. Però così, cioè, è non, fantapolitica. Non è che è andato a chiudere il Parlamento, ha detto si fa così. Ma lui sa perfettamente che c'è una quantità di pavidi e di persone che sono lì unicamente pensando ai loro interessi e alla loro poltrona, per cui porre la fiducia è una prova di forza violenta dove pochissime persone troveranno il coraggio di ribellarsi, se lo trovano, perché poi con questa cosa ridicola, no, della disciplina di partito, di un inventato vincolo di mandato che non esiste, la gente non ha il coraggio di prendere delle decisioni autonome, i cervelli portati all'ammasso, poi l'ammasso che sono i comodi loro, perché questo è il fatto, e nessuno ha il coraggio di dire no. In più il terrore con una legge elettorale così di non essere ricandidati, e quindi poi di fatto ognuno è il tengo famiglia, capito? Quindi, il tengo famiglia, sì, questo lo posso capire, però il fascismo è un'altra lo capiamo cosa. Nel senso, è vero che la legge elettorale è stata discussa per un anno, cioè si è discussa. Il patto del Nazareno, prima facciamo un passo avanti, facciamo un passo indietro. Anche lì facciamo un po' di cronistoria. Prima bisognava farle con tutti per per forza le riforme, noi non andiamo a colpi di maggioranza, non recitiamo i tweet che abbiamo letto fino a quindi fammi capire, per dire, il patto del Nazareno all'inizio c'è stato, poi si è rotto, poi hanno detto no, modifica le cose, avrebbe dovuto, come dice Renzi, avrei dovuto fare le ennesime modifiche e insomma ritardare ancora la legge elettorale che da 15 anni ci dicono di fare. Allora, questa legge elettorale, io però non voglio adesso, perché la mattina è molto presto, non si può, però tanto per citare il fascismo, no, la resistenza, quegli anni lì, c'è chi ha sostenuto, uno tra tanti, Leone Ginsburg, che purtroppo è morto presto e nessuno se lo ricorda più, che le cose andavano fatte con esattezza, a partire dalle traduzioni, nell'editoria per esempio, no, e non di fretta. Se io decido che per fare una legge elettorale, quindi è inutile poi mi si dice si è discusso un anno, vado a modificare proprio quelli che sono gli assetti e gli equilibri, parlamentari, è grave, molto grave, perché se... Vabbè, no, sentiamo però un'amica di Renzi, una che invece può dire qualcosa a sua difesa. Aurora. No, vabbè, il titolo del Fatto si riferiva a un dato storico incontrovertibile. La nostra Costituzione, articolo 72, dice che la Camera deve adottare la procedura normale per disegni di legge sia in materia di Costituzione che in materia elettorale, e c'è stata una forzatura, spettava al Parlamento votare ogni singolo emendamento, che poi non è che c'era una valanga di emendamenti. Ha vinto non il fascismo, perché comunque il fascismo è una cosa seria, e poi in giro non ne vedo i Matteotti, se quelli della minoranza del PD... Così, su questo sono d'accordissimo. Eccola, perché di Matteotti non ce n'è neanche uno, nei vari civati, cioè quelli lì, ecco. Matteotti. E sono anche molto delusa che non abbiano votato no, anche stavolta. Vedi, no, brava. Non rispondere, allora, delusa. No, ma hai detto giusto, la pavidità. Quindi allora, siccome non ci sono in giro dei Matteotti, dubito che ci siano in giro anche dei Mussolini. Detto questo, ha vinto il PDM ieri. Ha vinto il PDM, cioè il partito? DM, del mutuo. Ah, del mutuo. DM, per un attimo ho temuto. No, tutti abbiamo temuto. ho temuto un attimo. E devo dire che non era male. Ce l'abbiamo fatta, il partito del mutuo, cioè non andare a casa. Il mutuo, siamo ormai così. Anche tu, cioè tu che ne sai qualcosa, no, devi sposarti. A me non lo accenderanno mai un mutuo, precaria che sono. Vabbè. Quindi ha vinto il partito del mutuo, o del PDC, della Cadrega. PDC, il partito della Cadrega. Ecco, Veronica, un altro esame, la Cadrega, sai cos'è la Cadrega in milanese? Ma oggi che ho fatto io di male? Vabbè, ma questo c'era anche nel film di Aldo Giovanni e Giacomo. La sedia. Non mi piace. L'accanimento. Sei veramente, sei classico lombardo in ospitale. Ma no. Milanese, no? Che quando arriva uno da fuori, il forestiero, lo vuole mettere subito a disagio. Ma che forestiero? Ma siamo in Italia! Ma lei è orgogliosamente romana, cos'è che non è che deve, cioè le nostre tradizioni, allora vedi, tu sei qui che invece di difendere le nostre tradizioni va a rompere le balle, capito? Ma io confesso la mia ignoranza, io non sapevo bene cosa fosse la pasta alla gricia, poi me l'hanno spiegato pensa quanto avrei potuto umiliarti, ma io non l'avrei mai fatto. Vedi comunque la Cadrega e la sedia, vabbè, allora se non è fascismo, allora sentite qua uno che di fascismo invece non parla mai, Matteo Salvini che oggi ho fatto una capatina proprio in ripostiglio prima di uscire. Tracolo aperto, drum, è uscito Matteo Salvini in casa, era lì, dopo essere stato in tutti i talk show era anche nel ripostiglio di casa. Sentiamo Salvini. C'è qualcuno al Quirinale? Qualcuno ha dato un colpo di telefono al presidente Mattarella? Darà cenni di esistenza in vita? Cosa dovrebbe fare dal suo punto di vista Mattarella? Perché i precedenti ritornano al ventennio e alla legge Acerbo. Vedi Veronica, la pensi come Salvini? No, adesso questo non me lo devi dire. Diciamo che ci sono delle occasioni, chiaramente questo non cambia niente, anzi io speravo che questo fosse un momento in cui la sinistra potesse rafforzarsi, invece mi rendo conto purtroppo sempre di più che la sinistra, se vuole esistere, tra un po' dovremo inventarcela. Quindi è inutile che continuiamo a parlare di scissione, non scissione, il partito, resto nella ditta, che ditta, di che? Quale ditta? Vabbè dai, andiamo a sentire il traffico, poi qua ritorniamo a parlare di ditte con Veronica Gentili e Aurora Lussana, siamo qua. La colazione dell'italiano: cappuccio, cornetto e traffico a volontà. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta 24 Mattino. Ma quanto ci godo, Milan? Avete votato il PD, ve lo tenete, e il prossimo è peggio. Fidatevi che il prossimo sarà anche peggio. Ciao ragazzi, godetevelo. Signori, stamattina mi sto proprio divertendo con l'estrattore dei semi di verro. Questa nuova attività andrebbe estesa anche a Montecitorio, perché là stanno sacche che fanno le seghe, e allora potrebbero anche cambiare mestiere, estrattore di semi di verro. Mila, stai cercando in tutti i modi di gettare fango su questo, su questa grande petizione che abbiamo fatto per farti cominciare alle 6 del mattino, ma non ci riuscirai, no, non ci riuscirai, perché in soli 2 giorni abbiamo raccolto quasi 30 firme, e non è poco, e tu lo sai, quindi aspettati delle sorprese. Meno male che questa della tua amica Patana si sposa, così almeno per 15 giorni andrà in ferie, in viaggio di nozze, che ne so, almeno ce ne stiamo liberi, ma non ne posso più, Milan, ipocriti! Alino, che voce che c'ha la Veronica Gentile, altro che quella padana dell'Aurora, per fortuna che adesso si sposa e ce la togliamo dai maroni. Ecco, è arrivato il primo dei gruppi di Veronica Gentili, per la verità. Hai visto che lentamente, e invece... È un'operazione graduale, progressiva. Lo so, progressiva, invece passettino la nostra... per passettino, come dice la Boschi. La nostra povera Aurora, dicono, ce la togliamo dai maroni, non sanno che lei da leghista, quando si parla di maroni, è solo contenta, quindi non è che... Non è che... Siamo il governatore di tutti noi lombardi, ecco, Roberto, appunto, Maroni. Quindi ce la togliamo dai maroni, per lei è un gran complimento, cari ascoltatori, dovete assolutamente capire questo. Allora, si accomodi pure, si serva, prenda pure una cadrega. La cadrega non si rifiuta nessuno. Fumagalli, prego, si accomodi. Ma non te la ricordi la scena, prego, di Aldo, prego. Giovanni e Giacomo? Ma è più giovane di noi la Veronica Gentile. Vabbè, ma Aldo, Giovanni e Giacomo, no, lo sketch, dimmi. La tragedia è che ho avuto un fidanzato bresciano per un sacco di tempo. No, vabbè, questa Aurora, Rosana, non potevi dirlo. Adesso lo so, ho aperto proprio. No, proprio a una bergamasca dire ho avuto un fidanzato bresciano. Che devo fare? Lo so, errori di gioventù. No, ma cosa puoi fare per peggiorare ulteriormente la tua situazione, Veronica? Non lo so, ci penso, dopo il calcio, dopo l'interrogazione, adesso vedo, dopo non sapere dove portarmi a Baltimora, potrebbe portarmi a Baltimora. Non lo so, Aurora, tu esatto. Ecco. Aurora, hai mai dato un bacino sulla guancia a un bresciano? Sì. Ah. Vedi, sai che sono interracial in queste cose. Va bene. Il mio sarà un matrimonio multietnico, comunque, vedi? Ci saranno anche bresciani, cioè. Certo, bresciani, comaschi, milanesi, veronesi, un po' di tutto, vedi? Lo vedi che è più aperta di vedute di quanto tu non creda? Sì, certo, non ho sentito un salernitano, ecco, per esempio. Ecco. Comunque c'è questa petizione su change.org, è arrivata ora 33 firme. Che meraviglia, mi 33. Sa che da adesso passo la giornata a spammarla in giro da tutte le parti. Ma 33, ma dove vogliono andare? Che mi chiedono di iniziare alle 6 del mattino invece che alle 6.30. Vabbè, 33, ma ti rendi conto? 33, ma dai, ma dove volete andare? L'importante è che la cosa non coinvolga noi, cioè tu da solo per tutta la prima parte. Va bene. Poi... E anche questo è vero. Va bene, dai, vi voglio chiedere dell'Expo, cosa ne pensate? Allora, intanto sappiate che c'è Leonardo DiCaprio, c'è Tina Turner, c'è un po' di gente, certo si teme anche che ci siano non proprio dei gentiloni qua in attesa dell'inaugurazione. Tu Veronica sei un Expo ottimista da romana, come lo vedi questa Expo a Milano? Dicevo, meno male che ci sono almeno DiCaprio e Tina Turner, così almeno se c'è qualcuno, se non c'è qualcosa, c'è un altro. Non lo so, sono un po' spaventata, nel senso, spero ovviamente, mi auspico che vada bene, nessuno augura il male ad una cosa che può essere importante. Mm-hmm. Detto questo, sono insomma, un po' scettica, non un è partita sotto i migliori auspici. Perché? Cioè perché non abbiamo finito tutto? Non solo, insomma, c'è stato di tutto e di più, come dimostrazione di corruzione, insomma, l'Expo potrebbe essere messa sui libri di storia per i ragazzi, e E comunque poi si procede a rilento, è proprio l'emblema delle cose che non riescono ad essere, no, poi concretizzate rispetto a quelle che sono le aspettative, ed è sempre tutto un po' a metà, che è un po' quello che succede sempre in Italia. Eccola, allora l'abbiamo messa tra gli Expo Goofy, Veronica Gentili. Vediamo se Aurora è un Expo ottimista. Ecco, no, anche lei è tra gli Expo Goofy, mi sembra. No, spero anche vada tutto. No, non lo so. No, una roba bella. No, più che altro sono contenta che arriva la metropolitana, grazie a Expo fino a. È contenta, no, ti aprono la metropolitana sotto casa. Ho fatto un po' di metropolitana. No, l'importante è che ci sia qualcosa di buono da mangiare, no? Perché c'è un po' il monopolio lì del mangiare, tutti i ristoranti gestiti. Solo da un noto. Ce l'hai anche tu con Farinelli. Ce l'hai anche tu con Farinelli. Non distingueva la mortadella del discount della mortadella che vende lui, e visto quella prova TV che ha fatto. Ti hanno sottoposto due ciotoli. In una c'era la mortadella vende lui, immagino. Sì, la trovi. C'era la mortadella di Italy e poi una mortadella. Era ospite in Rai, c'era una mortadella sgrausa da discount e poi la mortadella super chic, super cosciuta che vende lui. E lui non l'ha riconosciuta, ha pensato che fosse quella del discount, la sua. Quindi no, non lo so. Cioè, gli hanno fatto questo tiro barbino, altro che il gioco della cadrega, a Veronica, hai capito? Infatti, lo trovi. Cioè, in realtà non lo trovi facilmente su. Hai un sacco di amici, capito? questo è un colpo basso per uno come Farinetti, eh? Vabbè, ho capito, sì, adesso tu c'è una nota giornalista Rai molto brava che si occupa di economia, di insomma, politica, insomma. E quindi boh, speriamo che mai. Chi è questa giornalista? Sarà mica fidanzata con un politico italiano? Ma no, una brava. No. Con un noto politico italiano. No. E così speriamo che si mangi bene. Vabbè, speriamo che si mangi bene. Allora, siccome ci ricordano che per la settimana scorsa abbiamo sbagliato e stavolta non vogliamo lasciarvi per questo ponte del primo maggio senza, anche se io domani lavoro, quindi ponte per voi, ma io sono qua. Davvero? E come no, certo, sono qua. Meraviglia! Questa è la punizione per avermi interrogata, domande di geografia adesso. Grazie per avermi pensato. No, c'è il momento della ricetta di Aurora Lussana. Aurora di solito da anni ci dà una ricetta. C'ho su a bollire da mezz'ora le rigaglie. Le rigaglie. Faccio un cibreo di rigaglie. Le rigaglie lo dovresti sapere cosa sono, Alessandra. Le rigaglie di pollo. Mi sa di qualcosa che non vorrò mangiare. No, però. Allora sono i fegatini. Appunto, ecco, immaginavo. Non volevo, lo sospettavo. Poi prendi le creste, ma le devi far sbollentare un po' nell'acqua salata. La cresta di gallo. E poi metti tutto a friggere col burro. È buonissimo. Poi metti dentro tutte le rigaglie. Sì. Dopo un po' anche i fegatini, prima le rigaglie perché sono un po' più dure da sbollentare. E poi? Sale, pepe e devi. Ma cos'è, un antipasto? Un secondo? Col brodo. No, il cibreo di è buonissimo. E poi primo. Ci metti su i tuorli. I tuorli con un po' di farina. Leggerissimo. E ancora un pochino di brodo e li lasci andare a manetta. Intanto uno legge la gazzetta e prima o poi vengono pronte. Ma è buonissimo il cibreo di rigaglie. Le rigaglie, vabbè. Comunque, quello che volevamo si sta manifestando il 6 giugno. Tutti al matrimonio della Lussana. Questo è un messaggio. Tutti a Cantù. È un messaggio di un ascoltatore. Io non farò mai questo tipo di invito. Per carità, del matrimonio di Aurora Lussana con un marito che non sappiamo chi sia, non si può dire. Vi ringrazio, vi saluto, Aurora Lussana e Veronica Gentili, alla prossima. Un'ossessione per Salvini nel nostro paese, vabbè, che un bel ragazzo, un bel tocco di manzo, per carità. Ma dai, come questa ossessione un su Salvini? Tocco di manzo, no, aspetta. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci.

ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozzino via fuoco. Milan, il cagnastrandaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:20 minuti. Allora, i rischi sono tanti, ma tutto si svolgerà in modo sereno. Il capo della polizia Pansa è convinto che domani l'inaugurazione dell'Expo finirà tutto liscio e lo speriamo ovviamente. Certo, inizia l'Expo e al di là di come andrà la manifestazione in questi sei mesi, e questo lo scopriremo più tardi, ci si chiede ma che figura faremo di fronte al mondo, come città, come Milano, come Italia? Sotto il profilo della sicurezza, intanto domani, anche ieri, sono stati fermati antagonisti, è stato sequestrato materiale per fabbricare bombe incendiarie, per sfasciare vetrine, insomma... Si preannuncia qualcosa di caldo. Il Fatto Quotidiano oggi pubblica addirittura la mappa che sarebbe stata decisa dagli antagonisti di dove andare a colpire domani. Ne parleremo dalle 8:35. Poi c'è anche l'aspetto d'immagine appunto. Due giorni fa c'è stato uno sciopero di una sigla sindacale piccolina dell'ATM, l'azienda dei trasporti di Milano. Sciopero, mezzi fermi, città bloccata, cittadini infuriati. È questa la Milano che vogliamo offrire al mondo? Il ministro Delrio oggi fa un'intervista sul Messaggero e dice: ciò che è successo a Milano è intollerabile. È grave che una minoranza poco numerosa condizioni la vita di una città quando la stragrande maggioranza dei lavoratori ha opinioni diverse. Parleremo di queste, anche se possiamo mettere anche in sorriso, come ha fatto Crozza. E non è escluso che Renzi all'inaugurazione chieda la fiducia anche sull'Expo. Non si può ancora entrare, ma è finito. Credetemi sulla fiducia. Vabbè, no, in realtà ne parliamo... più seriamente. E intanto saluto Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Buongiorno e ben ritrovato Massimo, eccoci qui. Buongiorno. Voi avete titolato anche tra sicurezza e anche scioperi ieri i Pirla che sabotano Expo. Allora, siccome Pirla è anche un po' affettuoso ma non molto, e ti voglio presentare subito uno dei protagonisti di quella che tre giorni fa è stata la città paralizzata. Claudio Signore è segretario del CUB Trasporti Milano, cioè quella sigla che ha bloccato con lo sciopero Milano. Buongiorno Signore. Buongiorno. E benvenuto ovviamente. Allora intanto non so se ha già letto il Messaggero, ma glielo dico così, in presa diretta. Il ministro Delrio definisce non tollerabile che una sigla piccolina possa proclamare uno sciopero e si sta studiando nuove regole, per esempio uno sciopero vale solo se la maggioranza dei lavoratori di un'azienda appartiene al sindacato che lo proclama. Perché avete fatto questo sciopero? Anzi, intanto ci dica quanti iscritti avete voi come sindacato. No, pochi, noi abbiamo un centinaio di iscritti in attività. Un centinaio, su quanti? 9.500 dipendenti? Sì, non sono tutti sindacalizzati, ma certo. Sono 9.000. Pochissimi, però siete riusciti, come avete fatto a far scioperare e a far bloccare mezza Milano? Ma noi abbiamo proposto solo le idee. Delrio dice che non è possibile che una sigla sindacale, come ha detto lei, così piccola riesca a condizionare i lavoratori che la pensano in modo diverso. Beh, secondo me la domanda è un'altra: come mai i lavoratori iscritti ad altre sigle sindacali la pensano come noi? Cioè, perché lei dice noi siamo 100, ma evidentemente hanno aderito anche altri di altre sigle sindacali, altrimenti i mezzi sarebbero circolati. Soprattutto i lavoratori iscritti ad altre sigle sindacali. Vabbè, fate campagna di tesseramento tra quegli altri iscritti, ecco, almeno invece di 100 diventa... A noi ci fa altro che piacere, ovviamente, ma non è quello lo scopo. Però in realtà il ministro dice che è intollerabile, cioè che una sigla con 100 iscritti possa riuscire a bloccare una città. Cioè voi vi siete messi nei panni, che ne so, di un... Ogni volta. Di, no, ma non tanto di un milanese, di uno che viene da Hong Kong, da Shanghai, da Singapore, dall'Africa, dall'Europa, dall'America. Noi siamo al servizio dei cittadini ed è ovvio che ogni volta ci poniamo il problema di cosa devono sopportare i cittadini. Ma guardi, ce lo portiamo... questo problema ce lo poniamo tutti i giorni con i disservizi di ATM, ce lo poniamo tutti i giorni, non solo nel giorno di sciopero. C'è qualcuno che si preoccupa solo nel giorno di sciopero e fa articoli solo per un giorno di sciopero e poi ignora poi tutte le cose che non vanno di ATM ogni giorno. Quindi lei dice quando c'è il disagio per i cittadini, tutti a dire però quando... Il disagio per i cittadini c'è tutti i giorni, insomma. Vabbè, sì, certo, però si rende conto che deflagra poi ovviamente nella giornata di sciopero. Deflagra, quando la gente aspetta ore un tram che non è arriva. Ci sono le fasce di garanzia che rispettiamo sempre, abbiamo sempre rispettato, che sono fatte apposta perché le persone possano prima raggiungere il posto di lavoro, poi che ne pensa del fatto che il governo sta pensando di cambiare le regole? In Germania ci vuole il 75% dei consensi in fabbrica per fare uno sciopero, soprattutto in settori delicati come quelli del trasporto. Poi quando scioperano non c'è nessuna regola, nessuna fascia oraria, nessuna limitazione. Ho capito, però. In questo caso avremmo avuto la stessa questione, insomma, lo stesso risultato sostanzialmente. Però se mi permette, sì. Del Rio interviene su questi scioperi. In realtà la discussione sulla ulteriore limitazione del diritto di sciopero non arriva da questo sciopero, non arriva da adesso, ma è una discussione che da anni fanno ed è in linea con gli accordi sulla rappresentanza in cui CGL e CISL e UIL l'unica paternità di poter indire sciopri. Tra l'altro io ho partecipato 2 anni fa al CLEL, dove si parlava appunto della legge sullo sciopero, ed è lì che le organizzazioni sindacali fecero quella proposta, quindi una proposta vecchia. Quindi una proposta vecchia, solo che adesso c'è l'Expo, ci sarà il Giubileo e quindi le preoccupazioni sono maggiori. E qui De Manzoni ti sentivo un po' borbottare, cosa c'è che non va? Ma a parte che non è vero che in Germania sarebbe successo lo stesso, perché appunto quelle regole avrebbero impedito a una piccola formazione sindacale di indirlo lo sciopero, per cui nessuno avrebbe c'è il referendum. Aspetta signore, parliamo una volta. Nessuno avrebbe potuto unirsi a quello sciopero, ma poi non stiamo dicendo le motivazioni di quello sciopero. Perché qui siamo all'aberrazione, noi abbiamo tirato il piede ma siamo stati molto gentili. Cioè questi signori scioperano, vogliamo dirlo perché? Perché nonostante siano stati strapagati per fare un po' di straordinario e spostare alcune ferie durante una manifestazione mondiale che capita nella vita una volta nella vita, non lo vogliono fare, vogliono più soldi e hanno scioperato per questo. Vogliamo dire i benefit che hanno già ottenuto per fare questo servizio? Accordo che tra l'altro la CGL, la CISL e la UIL hanno accettato, cioè solo tutti, voi. Tutti hanno accettato, evidentemente i lavoratori anche di CGL e CISL e UIL non sono d'accordo e hanno approfittato di questo sciopero, di questa sigletta per fare questa cosa, ma hanno 150 euro per premio presenza. Hanno 30 euro per il gettone del 1° maggio, hanno 150 euro per il disagio ferie, hanno 120 euro per attivazione di nuovi orari, hanno 25 euro di anticipo del contratto nazionale, hanno una maggiorazione del 20% delle ore straordinarie, hanno 180 euro per la disponibilità a spostare i riposi e hanno 90 euro per 6 riposi già spostati. Queste cifre sono queste, signore, non è che non si può, non vanno bene, signore, cioè non sono abbastanza. No, non solo, le dico, ad esempio il premio presenza di 150 euro non bisogna fare più di 3 giorni di assenza e i fruitori della legge 104 che assistono parenti disabili, se prendono questi 3 permessi al mese e non potranno godere nemmeno di quel premio, vengono penalizzati anche quelli. Ma io non voglio arrivare a questo. Ma lei, il vice direttore, se mi avesse telefonato durante o prima dello sciopero, le avrei spiegato che noi questi aumenti, che poi non sono aumenti, ma questi incentivi non li avevamo chiesti. È molto semplice, basta informarsi meglio. Sì, l'abbiamo chiesto, non vi faranno schifo questi incentivi. Certo che non facciamo schifo, chi fa straordinario deve essere retribuito, punto. Noi abbiamo semplicemente detto che lo straordinario non deve essere obbligatorio, perché la disponibilità a spostare 6 riposi non è la disponibilità che io do, no, è la disponibilità di ATM a prendere. Sì, ma qui diciamo ATM se li prende, punto. È chiaro, non è che vogliamo fare, non dobbiamo fare una trattativa sindacale, però signore, quello che voglio capire è che... Noi abbiamo chiesto altre cose. Noi abbiamo detto che mancano in ATM, nel servizio ordinario, 500 autisti, e nel mio deposito ogni giorno ci sono fino a 80 turni scoperti, già nell'ordinario, no? E se ci danno dei servizi aggiuntivi, questi 80 turni scoperti, quindi 80 persone in meno crescono. Vabbè, ma qui è una questione di trattativa. Sì, ma io non è che sono addentro, non è che sono la controparte, non è che sono ATM, non è che so rispondere dal punto di vista sindacale. Qui la questione che ha fatto arrabbiare anche Libero con quei toni, si sa, poi De Manzoni, voi avete dei toni e dei titoli anche molto molto duri, insomma. Siamo stati molto gentili. Siete stati gentili. Ma cosa ha fatto arrabbiare? Cioè l'idea dello sciopero in sé, ci sono stati spesso scioperi che hanno paralizzato città, o il fatto che questo sia un biglietto da visita squalificante a 2 giorni da una manifestazione come l'Expo? Cioè cos'è che veramente vi ha fatto arrabbiare in questo sciopero rispetto ad altri scioperi del passato? Vice direttore, a De Manzoni lo chiedo. De Manzoni. In questo sciopero le motivazioni sono particolarmente irritanti, secondo me. Cioè, ho cercato di spiegarlo prima, forse non sono stato chiaro, lo ridico in altro modo. C'è una manifestazione che capiterà una volta nella vita di ogni carro tranviere, è stato chiesto un sacrificio, perché io capisco spostare le ferie, lavorare magari qualche ora in più, è un sacrificio, però è stato chiesto un sacrificio retribuito a fronte di una manifestazione che ha un'importanza vitale per la città sicuramente, ma probabilmente anche per il paese. È una delle poche cose che è in grado in quest'anno disgraziato 2015, che segue altri lunghi anni disgraziati di crisi, di muovere un po' il PIL del paese. Sono attese 20 milioni di persone, è una da tutto il mondo, è una vetrina importante per l'Italia, e non si può assolutamente bloccare tutto e creare allora ti chiedo, cosa pensi? Basi, perché soprattutto su queste basi, non si può in assoluto, perché io sono assolutamente convinto che deve finirla questa storia. Ti chiedo un commento su quello che dice Del Rio. Nei servizi pubblici, nei trasporti, si possa prendere ostaggio la gente un giorno sì, un giorno no, a seconda di come gli si... Che ne pensi allora di Del Rio, che dice oggi al Messaggero: non sarà più possibile, perché cambieremo le regole, bloccare la città per l'agitazione di un solo piccolo sindacato? Ho letto Del Rio, le enunciazioni sono giuste, mi sembra che la soglia sia bassa, perché parla di una 51%. Ancora una volta, secondo me, è ancora troppo poco, perché è comunque sempre una minoranza che prende in ostaggio intere fette di popolazione, e questo sta diventando intollerabile. Devono trovare altre forme di manifestare il loro dissenso. Vabbè, lo sciopero non è l'unica cosa che ci sia. Signore, siccome dobbiamo poi parlare della sicurezza dopo la pubblicità, da un altro punto di vista, cioè quella dell'arrivo degli antagonisti, ci sono altri scioperi in vista per quel che le riguarda al Cubo? Questo non mi avete fatto dire quali sono le nostre motivazioni, no? Sì. Perché uno non è una minoranza, ma è la maggioranza dei lavoratori che è scioperato, che purtroppo ha fatto questi... Vabbè, ma perché avete preso altre sigle sindacali, mi interrompe sempre. Noi abbiamo detto che i sacrifici i tranvieri lo fanno, il 30% del servizio ordinario viene fatto già a straordinario, sono 8 anni che non ci rinnovano un contratto. Noi quello chiedevamo, semplicemente quello, non chiedevamo, è stata monetizzata la salute e la sicurezza per i lavoratori e per i cittadini, ma se un lavoratore lavora 13 ore su un bus, guardi che ci sono dei limiti di legge ma io sono d'accordo su tutto, però che non possiamo lavorare più di 8 ore al giorno, di guidare 8 ore al giorno. Signore, allora, mi perdoni, ma lei può voi potete avere tutte le rivendicazioni sindacali che volete, ed è legittimo che le portiate avanti. Quello che è il punto da cui si svicola continuamente è che Del Rio, come quello che è il parere di molti, dicono che una sigla con 100 persone iscritte non è legittimata a fare uno sciopero che paralizza una città. È su questo il punto su cui si sta discutendo. Poi portate avanti le vostre rivendicazioni sindacali, e se riuscirete a conquistare dal punto di vista sindacale con l'azienda tutte le vostre rivendicazioni, è ben per voi e per i vostri iscritti, voglio dire, ma è questo il punto fondamentale. Però guardi, siccome non è che la interrompa, perché i tempi radiofonici purtroppo sono questi, sono molto, molto serrati. La reinvito una prossima volta, sperando che non sia una prossima volta in cui c'è da parlare ancora di disagio. Ma noi dopo la pubblicità dovremo parlare della sicurezza invece per domani, perché si temono davvero molti molti scontri. De Manzoni rimane con noi, avremo con noi anche Mirko Mazzali, che è consigliere comunale a Milano ed è uno degli avvocati che si prepara a difendere gli antagonisti in caso di scontri che succederanno, speriamo di no. Sempre Libero, visto che abbiamo il vice direttore Massimo De Manzoni con noi, oggi titolo in prima pagina: ecco il kit d'assalto dei bravi ragazzi. Sono state sequestrate ancora, che cosa? Bottiglie incendiarie, armamentari per spaccare vetrine, martelletti frangivetro, petardi, artifici pirotecnici, insomma tutto ciò che è a rischio violenza per le contestazioni contro l'Expo che domani si attendono a Milano. Addirittura oggi il Fatto Quotidiano pubblica una mappa di quelle che sarebbero gli obiettivi individuati da alcuni anarchici, e soprattutto sarebbero la Scala, dove domani c'è la Turandot alle 20, e la Fondazione Stelline. Allora, insieme a Massimo De Manzoni voglio salutare Mirko Mazzali, che è capogruppo di SEL in Consiglio Comunale, è anche avvocato, è uno degli avvocati del Legal Team Italia. Buongiorno Mazzali e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, intanto, che cos'è Legal Team Italia? Cioè, voi siete pronti a difendere chi fosse eventualmente fermato, arrestato per disordini domani? No, in realtà non è una questione di difendere. Legal Team è un'associazione che è presente da tanti anni. Non si tratta di assumere difese, che non sarebbe neanche consentito dal nostro codice deontologico, ma di svolgere una funzione di osservatore, una funzione che può essere utile in molti casi a svelenire il clima, a evitare incomprensioni, semplicemente questo. Voi avete chiesto, per esempio, credo alla polizia di poter accedere a tutti i siti dove venissero, nel caso, fermate le persone domani. Cioè, c'è stata anche una polemica tra voi e la polizia, perché la polizia ha detto come se voi sapeste già che qualcosa sta per succedere. Vabbè, la polemica non era con tutta la polizia, con qualcuno probabilmente, che noi sapessimo cosa può succedere, non lo sappiamo direttamente, ma leggiamo i giornali, mi sembra che proprio un giornale che ha creato questa polemica era 10 giorni che pubblicizzava correttamente veline dei servizi segreti o informazioni che parlavano di possibili incidenti. Noi leggiamo i giornali, abbiamo detto questo, niente di più. Il fatto di andare nelle caserme, anche questo è una cosa che può essere utile. Informalmente avviene anche in altre manifestazioni, magari vengono fermate delle persone, i manifestanti si accalcano fuori dalla caserma, è utile che qualcuno vada dentro per dire a quelli fuori, come sempre succede, che stanno bene, che quindi voi chiedete succede... questo, la possibilità di accedere a caserme, uffici di polizia, stazioni dei carabinieri, laddove ci fossero dei fermati, di poter accedere per poter tranquillizzare parenti, amici, è questo, sì, che è tutto a posto. Poi noi siamo i primi che si augurano non succeda niente, anche in qualità di consigliere comunale, di capogruppo di SEL, evidentemente. E questo ovviamente lo speriamo tutti. Certo, a leggere i giornali, Massimo, voi per primi raccontate nei dettagli. A me ha molto colpito quello che ieri il Corriere diceva e oggi voi avete giustamente riportato, e cioè che alcuni stranieri sono stati fermati in alcuni blitz preventivi della polizia e il giudice ha detto che non si possono espellere, non possono essere espulsi prima, perché non si capisce bene, questione sempre di lana caprina, Questo è uno dei nostri problemi. Ieri è risuccesso, hanno fermato una quindicina di anarchici francesi, ma il decreto d'espulsione è una specie di differita, nel senso alla moviola, sono espulsi, dovranno andare via entro 15 giorni, la manifestazione dopo domani, è chiaro che potranno partecipare. Questi sono tra l'altro dei circolo anarchico, la Maison de la Grève di Rennes, e loro hanno, sui social network hanno postato: oggi a Milano ci vediamo sulle barricate. Il materiale di cui erano in possesso non è proprio quello che si usa normalmente per andare a fare una visitina o una passeggiata. Certo, non sono armi vere e proprie, come hanno detto i giudici, però c'è una mazza, un martello, una fionda, un piede di porco, usati in un certo modo diventano delle armi e possono anche uccidere, è già successo. Ma domani davvero che cosa ci dobbiamo attendere secondo te? Guarda, io non sento, grazie al cielo, il clima che si sentiva nei giorni immediatamente precedenti il G8 di Ma Genova. Ma questo no, infatti non anche secondo me il paragone è esagerato. Non mi sembra che siamo a quel livello, anche se qualcuno ha fatto questo paragone, addirittura c'è stata qualche iperbole, sarà Genova moltiplicata per 20, io questo non lo credo. Purtroppo temo che dovremmo aspettarci qualche incidente, qualche cosa, perché incomprensibilmente, a mio modo di vedere, perché anche qui le motivazioni, come dicevamo prima degli scioperi, la stessa cosa per le motivazioni di questa manifestazione, mi sembrano veramente deboli, perché se c'è una manifestazione politicamente corretta, mi pare proprio l'Expo di Milano, nutriamo il mondo, curiamo le biodiversità, cioè tutti slogan e parole d'ordine che abbiamo sentito riecheggiare tra i no global in questo periodo, però evidentemente qui il pretesto di una grande manifestazione sotto gli occhi del mondo è buono per contestare. È buono per fare. Io vorrei chiedere all'avvocato Mazzali se non si trova un po' in imbarazzo in questo doppio ruolo, nel senso, lei è un consigliere comunale, quindi rappresenta Milano, è capogruppo tra l'altro del suo partito SEL, ma in qualche modo è vicino anche a persone che potrebbero essere fermate. Se sono fermate delle persone in quella situazione, si presume che qualcosa abbiano fatto oppure no? Vabbè, vicino è un termine che no, vicino dal punto di vista insomma di appoggio, no, anche legale. Guardi, sì, no, io capisco, come dire, questo parallelismo, che però chi conosce e stima la professione dell'avvocato immagino non faccia. Io non sono il primo avvocato che fa politica, ci sono casi ben più evidenti di chi magari difendeva soggetti ed era in Parlamento, ma questo è assolutamente legittimo. La professione dell'avvocato è una cosa, l'attività politica, ma certo che io deontologicamente, ma anche, come dire, coscientemente, non difendo chi compie azioni nei confronti del Comune di Milano, e questo è tutto evidenza, ma non capisco perché non potrei difendere chi commette un reato, non farei l'avvocato. Allora, ma su questo certamente. Che ne pensa delle contestazioni che ci sono? Il sindaco Pisapia, se non sbaglio, ha detto: contestate la manifestazione, se ritenete. È legittimo, siamo in democrazia, si può contestare tutto, però ovviamente fatelo nei modi giusti e nei modi dovuti. È banale che dire che anch'io sono d'accordo con quello che dice il sindaco, che peraltro è una roba di buon senso. Contestare è consentito, commettere reati è commettere reati, e questo chiaramente non va bene. Credo che sia questo il senso. Io anch'io condivido le affermazioni del vice direttore di Libero, le vocazioni al Genova G8 sono assolutamente fuori luogo, perché sono passati 14 anni, perché c'è un clima politico diverso, c'è anche, come dire, una situazione complessivamente diversa. Io mi auguro che tutto venga riportato secondo dei criteri, come dire, di normalità. Poi può essere che qualche incidente ci sia quando ci sono 100.000 persone, 150.000 persone che arrivano da tutto il mondo, un po' può avvenire. Vedo che la polizia sta operando anche preventivamente. Sì. Ecco, però trova normale che un magistrato dica non vanno espulse delle persone che sono state fermate, che secondo la polizia sono pericolose e sono qui per delinquere durante le manifestazioni di domani? Beh, guardi, io non conosco gli atti, però per allontanare una persona dal luogo, visto che il delitto di muovere è garantito dalla Costituzione, certo, occorre dei presupposti che in quel caso lì, io conosco anche personalmente il magistrato, che è una persona scrupolosa, non avrà trovato, oppure, come dire, i primi elementi di pericolosità non c'erano, immagino che non c'era, non si sia potuto fare il collegamento, immagino, sì, però, fra i soggetti e le armi e gli oggetti contundenti il timore che così però se, ecco, in punta di diritto si giustifica tutto, questo è quello massimo. Beh, ma, delle ragioni che avete anche sì, sottolineato voi. Però tira un avvocato, come dire, che non si possa agire in punta di diritto, lei capisce? No, che... no, ma per carità, nessuno vuol dire non si può agire in punta di diritto, però trovano alcune persone, trovano delle armi e li considerano vicini agli ambienti antagonisti. Ma manca, intanto c'è il diritto garantito a muoversi, Massimo, quindi essendo francesi, sai, siamo in Europa, non è che puoi limitarli. E poi, e poi chissà se le armi erano loro, chissà se di qui, chissà immagino se immagino che sia così. Immagino che sia sì, così. Sì, sì, beh, i tre tedeschi che appunto c'è stato hanno trovato vicino queste armi, diciamo così, per semplificare, e che il magistrato non ha ritenuto ci fossero gli elementi eccetera eccetera, il giorno dopo sono stati trovati vicino a un altro piccolo arsenale di quel, di quel tipo lì, quindi forse non era così campata per aria l'ipotesi della polizia di collegare queste persone a queste armi, visto che sono in case occupate, in una situazione già abusiva, già di per sé fuori legge, con materiale che di per sé singolarmente preso non è fuori legge, perché è ovvio, una maschera antigas non è di per sé una cosa fuori legge, ma se capiti in casa mia e trovi 20 maschere antigas e una quarantina di persone accampate qui che si preparano a andare alla manifestazione dell'Expo del giorno dopo, qualche dubbio ti viene, ecco. Il dubbio sì, però insomma il giorno dopo forse dei provvedimenti di polizia si possono assumere. Vabbè, però sai, siamo in democrazia e c'è un giudice che poi alla fine stabilisce e ha deciso così. Guardate, domani noi siamo in diretta e siamo qui, speriamo davvero che non succeda nulla e che l'Expo, con tutte le criticità, le critiche che uno può fare, inizi e venga inaugurato in maniera serena, anche se ovviamente il clima non è di quelli migliori. Intanto vi ringrazio, Mirko Mazzali, ricordo capogruppo di SEL in Consiglio Comunale a Milano e uno degli avvocati del Legal Team Italia, così come ringrazio il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni, al momento del traffico. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta Lavoratori. Chi non lavora. Eccoci qua. E lo sappiamo ormai, cari lavoratori, scriveteci a 24 mattino e tradio. Sì, vabbè, quella roba lì è tradio24.it. E noi racconteremo le vostre storie di lavoro, visto che si apre l'Expo tutto dedicato al cibo. Oggi voglio salutare Antonella. Buongiorno Antonella. Buongiorno Alessandro e grazie della possibilità di intervenire. Grazie a te, sei stata una delle prime tra l'altro a scriverci. Antonella gestisce un ristorante vegano e vegetariano, bio, con pasti a domicilio, addirittura. Sì. Ma dove siete intanto? Dove? Siamo a Parma città. A Parma. E questa iniziativa da quanto c'è? Quest'anno compiamo 19 anni di attività e sono 17 che consegniamo i pasti in città con biciclette da trasporto. Ma è fantastico, cioè in genere si dice il veganesimo, questa nuova, non so se definirla o moda o filosofia, è molto moderna, invece voi siete dei precursori allora. Sì, direi proprio di sì. Noi siamo 25 anni che abbiamo adottato questo stile di vita e dopo 6 anni abbiamo deciso di aprire un ristorante perché effettivamente mancava la possibilità di trasmettere il concetto rimanendo dei singoli. Quindi il ristorante è nato proprio dall'idea di poter coinvolgere più persone possibili in questa nostra filosofia di vita. Va bene, ma sì. Che vuol dire che consegnate anche i pasti a domicilio? Vabbè, avete un ristorante e questo sì, bene. Esattamente. E poi che vuol dire? Vuol dire che praticamente noi abbiamo un menù che varia tutti i giorni, quindi le cose, in base alle cose fresche che troviamo, elaboriamo i nostri menù, quindi tutti i giorni è diverso, lo inseriamo sul nostro sito internet e i clienti possono inserirsi nel sito, verificare il menù del giorno e a questo punto risponderci via mail o via telefono facendo i loro ordini. E noi siamo in consegna tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12 fino alle 13.30. E ovviamente andate come? Con biciclette? Con biciclette da trasporto. Abbiamo biciclette da trasporto, due biciclette da trasporto, e adesso abbiamo aggiunto anche da 4 anni un fiorino a metano. Perché ovviamente le distanze più importanti le facciamo proprio col fiorino. Questo ci permette così di arrivare un po' da tutti i clienti, anche quelli che in realtà non riescono a raggiungerci per motivi di tempi. Antonella, perché questo sposare questo tipo di filosofia? È un caro amico che è vegano, io non lo sono, mangio carne eccetera, ne parliamo, però ogni volta che ne parlo sono affascinato dalla convinzione con cui mi... però ecco, non è che sposo la sua posizione. Perché questa filosofia, ce la vuoi spiegare? Ma Alessandro, io penso che sia una situazione dove a un certo punto c'è un salto quantico a livello mentale, fisico e spirituale. Questo salto quantico non ti permette più di tornare indietro, nel senso che è un, come dire, chi ci arriva prima, chi ci arriva dopo, un senso di consapevolezza che varia. Ah, ma quindi siete diventati consapevoli prima degli altri. Diciamo che siamo precursori, in questo senso, precursori. Sicuramente, senza nulla togliere a chi ancora ha un'alimentazione tradizionale, diciamo che se vogliamo tutelare questo pianeta, le future generazioni, sarà importante che ciascuno di noi faccia la sua parte. Allora, visto che è un messaggio anche per l'Expo, mi sembra giusto. Antonella, io purtroppo devo chiudere, però di il nome del ristorante, insomma, di, perché almeno... Apriti Sesamo Parma. Apriti Sesamo Parma, beh, abbastanza facile da capire. Apriti Sesamo Parma, va benissimo. Antonella, con te concludiamo e ti ringrazio. Ricordiamo, gestisce il ristorante vegano Apriti Sesamo Parma con biopasti a domicilio. Allora, noi domani siamo in diretta, 1° maggio, siamo qui dalle 6:30. Vabbè, siamo qui con Peter Bescapè, Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi. Siamo qui anche domani, Ciao, a domani. Maccherone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso. Io me ne mangio.